con la marcia. Andiamo ai vostri posti, oh bella, ai vostri posti. Susanna, dammi il braccio. Eccola. Danari. Io son di ghiaccio. Contessa. Or non parliamo. Ecco qui le donosse, ricevele dubbio. Al fin si tratta d'una vostra protetta. Seggiamo. Seggiamo. Benediamo, benedetta.